Libro primo. Le colpe degli umili. Domani sparerò in mensa. Alle 12:47. Svolgerò regolarmente le mie mansioni nel turno della mattina, quello che va dalle 6 alle 12:30. Timbrerò il cartellino. Preleverò, come sempre, il cutter e i guanti dall'armadietto. I miei movimenti saranno ancora più lenti. Il giorno dell'Apocalisse richiede una liturgia di gesti precisi e armonici. In questo momento non saprei dare un senso a tutto il sangue. Sparerò nel mucchio, perché una cosa sola ho capito in 23 anni di fabbrica. Ho capito che nessuno è innocente. Tutti si macchiano di crimini. In questo posto maledetto tutti i delitti sono colposi. Il delitto colposo, il più stupido e insopportabile, il più indecente. Entrare in mensa e sparare a cazzo, perché quando i tuoi nemici sono invisibili, quando non si manifestano a viso aperto, allora tutti sono nemici. Perché l'assassinio strategico e mirato è fuori dalla storia e dalla mia miserabile cronaca. Qua nessuno si merita l'onore di un'esecuzione. Questa gente si merita solo una pallottola vagante. Negli ultimi giorni ho riflettuto molto. Ci sono personaggi che non devono sfuggire alla mia vendetta? O altri che meritano la salvezza? All'inizio di questa settimana mi ero intestardito a stilare una lista di buoni e cattivi. La segretaria, che era stata gentile agevolandomi nell'acquisizione di un documento. Buona. Salva. Il diretto superiore, che non aveva saputo opporsi al mio ridimensionamento, benché conoscesse la mia abnegazione. Cattivo, buco in fronte. Idiozie, inutili tormenti d'animo, intralci nelle fasi dell'azione. Non si tratta di esecuzioni, così agirebbe un dio sensato, uno di quelli a cui vi ostinate a rivolgervi in preghiera. Si tratta di sparare con un fucile mitragliatore, a raffica. Si tratta di affidare la vita e la morte al caso. Non sono riuscito a identificare persone da salvare senza rimpianto, né da condannare senza pietà. Non esiste un capo reparto particolarmente malvagio che va a mangiare alle 12:47. Ma alcuni tra di voi insisteranno. Perché non giustizi il direttore di stabilimento e tutti i suoi cortigiani e risparmi i poveri operai costretti alla catena di montaggio? Perché non sali tra le 13:25 e le 14, quando sono assisi solo loro, porporati e chierici, distribuiti a contatto di gomito in quei tavolini quadrati, 4 per ogni lato, a ridere e a cianciare di gastroscopie, raga di anali e massimi sistemi, mentre giù di sotto il brulichio delle laboriose formichine è in pieno fervore? Allora proprio cominciamo male, e davvero non capite un cazzo, vi dirò io, che questo posto lo conosco bene. Le 12:47 sono l'ora di massimo afflusso in sala mensa. Tutto qui. Io sono debole e confuso, figlio di una generazione impresentabile, pallida, cresciuta nelle tenebre. Il mio odio rischiava di non deflagrare verso l'esterno, di implodere nelle viscere riempiendomi di metastasi. Non ho mai trovato collocazione certa, sempre spiazzato tra vassalli e servi della gleba, e questo mi ha esposto al fuoco incrociato. Ho cercato di essere un mercenario senza patria, fuori da ogni leccaculismo con chi detiene il potere, esterno al sindacato centrale, anche se iscritto, per codardia. Ma è difficile non subire contaminazioni. Per quanto abbia cercato di chiudermi ermeticamente, l'impresa è stata improba. L'emotività mi frega e come un cucciolo ho cercato padroni per le carezze e i calci. Ho eseguito le mirabili azioni richieste dalla mansione a cui mi hanno relegato nel modo più irreprensibile per non prestare il fianco a richiami e azioni disciplinari. Dovevo essere a filo di piombo, perfetto, senza esibizionismi. Tenere un profilo basso, gestire con sapienza l'assunzione di eroina, cercare di evitare crisi di astinenza. Dovevo essere puro, scevro da ogni colpa. Dovevo essere nel giusto. È stato un lavoro duro, una mutazione lenta, ma con degli step definiti. Nell'ultima settimana non ho mai tolto le cuffiette dell'MP3, nemmeno nelle pause, per rimanere concentrato su venerdì 12 maggio. Io credevo in questa azienda, ero l'agnostico più bigotto. Mi sono trasformato in un individuo perfetto, destinato all'ingiustizia e pronto alla reazione più inattesa e più scontata. Mi ci hanno portato di forza sull'orlo di questo baratro e non dovrebbe essere la mia figura, oggi, a farvi orrore. Mi sono sottoposto a prove sempre più dure, in un contesto sempre più umiliante. Non ho reagito alle piccole iniquità quotidiane, non ho chiesto spiegazioni all'inspiegabile e all'arbitrio che regna. Non ho protestato, cercando di diventare sempre più insensibile. Mi sono chiuso sempre di più, inflitto punizioni supplementari per essere sempre più forte, come se questo martirio ancora non fosse sufficiente. Nell'ultima settimana non mi sono lavato. Mi sono cambiato gli abiti, ma non ho avuto la possibilità di lavarli. Non ho reagito a frasi sprezzanti che mi sono giunte a mezza voce. Come i gemelli inumani della città di Kappa mi apostrofano con termini poco carini. La cattiveria si scatena tra pari livello, ma io resisto. Sarebbe troppo comodo se a scagliarsi contro di me fossero stati i capò e i sacerdoti, che invece si limitano a oppormi indifferenza. Figlio di Cagna, bastardo, mostro, malefico, gnomo. Pensavano che non li sentissi perché non facevo una piega. Non immaginano che a volte tengo il volume dell'MP3 a zero. La prima volta era capitato per caso. Batterie scariche, chissà da quanto tempo va avanti questo gioco. Ma non riesco a essere completamente impermeabile agli attacchi esterni. Le offese aumentano battiti cardiaci e sudorazione. Sentivo anche le cattiverie riferite al mio cattivo odore. Avevo accorciato le pause personali arrivando a 1:30. 30 secondi per arrivare con passo marziale ai bagni. 30 secondi per urinare. Nessun lavaggio di mani. 30 secondi per tornare al mio posto di lavoro. Non mi sedevo a riposare le gambe. D'altra parte la mia abnegazione è sempre stata assoluta. Lavoro con attacchi influenzali in corso e infezioni alle unghie causate da guanti che non cambio. Ho sempre dita gonfie di pus che pulsano dentro i guanti più stretti che abbiamo in dotazione. Ogni volta che prendo in mano un oggetto vedo le stelle e bestemmio a voce alta. La gente attorno a me non ne capisce il motivo. La mia fama da irrecuperabile si solidifica. Quando le infiammazioni si fanno insopportabili, tiro cazzotti ai contenitori metallici. Devo avere una microfrattura al metacarpo della mano destra. Spero non mi impacci nel momento di imbracciare l'arma. L'eroina mi ha aiutato a lenire il dolore fisico, ma ho imparato a diminuire le dosi dell'ammortizzatore oppiaceo, a gestire piccole crisi di astinenza. Ho vissuto i miei ultimi giorni in perfetta simbiosi con questo luogo. Nessun radiogiornale, nessun contatto telefonico con persone che non attengono a questo luogo, nessuno stimolo etico, culturale o politico potrebbero distrarmi dal progetto finale. Leggo l'oroscopo sul mensile Astra e i cataloghi dei supermercati. Nei punti ristoro potrete trovare solo queste due pubblicazioni. Ma voi, maledetti, continuereste a non capire la ragione di questi sforzi. Direste che è un problema mio, tutto dentro al mio cervello. Direste che vedo nemici che non esistono, che penso troppo, fino ad avere degenerazioni delle cellule cerebrali. Arrivereste ad affermare che ho vissuto in un'allucinazione perenne. Mi sembra di sentirvi. Direte che questa è una fabbrica modello, il modello emiliano, che si fregia di fornire i climatizzatori anche alla Ferrari. Nessun conflitto apparente, tutto è armonia, unità di produzione, certo, ma senza forzature. Ognuno al posto suo e ognuno con un posto assegnato. Contratti a tempo indeterminato. Niente extracomunitari o disperati dalle agenzie interinali. Siamo tutti indigeni, ci conosciamo da sempre. Quelli che non sono morti in incidenti stradali li vedremo invecchiare. Per ora arrivano notizie di anziani genitori deceduti. Qualcuno si occupa di raccogliere i soldi per i fiori e le offerte che andranno in beneficenza. Qualcuno è stato assente per gastroscopie e altri esami specialistici, a fronte di qualche brutto sintomo, per ora nulla di definitivo. Ci conteremo le rughe, verificheremo l'avanzare delle stempiature, l'aumento dell'atipe nelle femmine. L'abitudine non ci fa cogliere i cambiamenti. Siamo arrivati qui dentro passando per l'asilo infantile, la piscina comunale e le volate in motorino. Questa fabbrica ci accompagnerà fino alla casa di riposo e alla morte, dopo aver buttato giù il cartongesso della pensione. A noi nessuna recessione ci piega. La globalizzazione non ci ingoia. Noi siamo l'isola socialdemocratica. Non c'entriamo un cazzo con il Sud Italia. Non siamo gli estremisti padani del Nord-Est. Niente locali lap dance nella zona artigianale. Niente centri commerciali mostruosi. Niente polo chimico che vomita morte dalle ciminiere. Niente montagne di immondizia. Niente morti ammazzati. Siamo un'isola moderatamente felice. O meglio, siamo concreti. Il concetto di felicità non ci interessa. Troppo vago. Se vi foste fatti un giro per i reparti accompagnati dalla signorina Paveri, avreste notato decoro, ordine e pulizia. Nessun odore molesto di plastiche fuse, oli lubrificanti bruciati. La signorina Paveri si occupa di relazioni esterne e organizza i corsi di aggiornamento. È una donna trampoliere, molto distinta, che detiene ancora i primati provinciali di salto in lungo e salto in alto. Vi avrebbe fatto camminare esterni alle linee di assemblaggio dei climatizzatori destinati alla Ferrari e all'Alfa Romeo. Sarebbe stata molto accurata nella descrizione delle operazioni e seducente nei modi. Non ve ne faccio una colpa. Chiedo solo che leggiate queste pagine così, per non convincervi in pieno. Solo per farvi conoscere la parzialità della mia storia. Qualche sopravvissuto vi mostrerà questo piccolo loculo. Troverete la chiave inserita. Vi risparmio la fatica dello scasso. Sarà forse un dirigente, un uomo fidato della manutenzione o un portinaio. Oppure la stessa Ghedini, il production supervisor. Se sarà fortunata. Stasera ho acceso il PC della Ghedini, la donna che gestisce le mie mansioni e le mie ferie, e altri dettagli tanto risibili quanto fondamentali. Io non le ho mai chiesto settimane intere di ferie nel periodo più ambito, la seconda quindicina di giugno o la prima di luglio. Non ho mai pianificato giorni strategici per saltare in ponti favolosi tutte le festività degli anni futuri. In questi calcoli erano specializzati i miei ex colleghi d'ufficio, l'Ariano Pasotti in particolare. Mai mi applicai a questi studi, considerando quelle malizie vergognose. La Ghedini è una di quelle femmine che definirei mutanti. Non diresti che è bella, non diresti che è brutta, non diresti un cazzo in realtà, ma la definirei anonima. Potrei identificarla come sfuggente. Non è crudele e nemmeno troppo tenera. È splendida per quanto appare algida, equidistante. Per essere una femmina, il suo carattere non è funestato da escursioni umorali. Deve avere dei valori di testosterone piuttosto alti. Nessuna password mi blocca l'accesso. Il PC si accende molto lentamente. Le hanno concesso una macchina vecchia, scarto di qualche ente più prestigioso. Ho trovato il file con le nostre schede personali. Pensavo di trovare informazioni riservate, qualcosa che potesse giustificare l'accanimento sulla mia persona. Non ho trovato nulla. Sono descritte le mie mansioni e la situazione ferie residue. Null'altro. Come ogni mattina, in 40 passi esatti dal marcatempo arriverò al mio compagno, l'unico elemento con cui ho confidenza, il mio carrettino fedele. Fermo, nel punto esatto dove l'ho lasciato. Il carrettino su cui carico il materiale per il rifornimento delle linee, dove assembliamo il manufatto della Malora, il gruppo riscaldatore montato di serie su una berlina italiana. Come spesso capita negli ultimi tempi, mi sarà assegnata la linea D. Ci sono dei fogli A3 tra i due bagni, dove la Ghedini riporta la formazione delle squadre. Nelle caselle di sinistra i nomi degli operai, a destra la linea di lavoro, identificata da lettere dell'alfabeto, dalla A fino alla E. Quest'ultima non è quasi mai attiva. Funziona solo quando ci sono dei guasti sulle linee principali. Sulla linea D lavorano le operaie più veloci e meglio addestrate. Io la chiamo fuoco centrale. Lavorano a ritmi infernali. Tutto deve essere perfetto. Nel rifornimento non puoi permetterti errori. Non ci devono essere imprevisti o sei fottuto. Lavori sulla soglia del panico. La bottiglia d'acqua addizionata con potassio e vitamina C che mi porto al seguito spesso rimane inviolata. Non ho il tempo di sentire la sete. Solo un sincronismo perfetto e una forma fisica eccellente possono salvarti. Devo alimentare diversi scivoli che convergono sulle postazioni della linea produttiva dove le operaie assemblano. Con il mio carrettino seguo un percorso obbligato. Prelevo il materiale a multipli di 4 da contenitori di ferro. La ripetitività e la riproducibilità del sistema tende alla perfezione dell'aritmetica semplice. Tutto giù di sotto, in officina, è multiplo di 4. Questa circostanza, se proprio non vi farà simpatia, almeno vi farà apprezzare una certa vocazione all'efficienza, come se la precisione fosse parente stretta della giustizia e di un sano vivere. Maledetti, voi non potete capire cosa vuol dire vivere in un mondo multiplo di 4. Non potete avvertire i pericoli insiti in un sistema che non tollera i numeri dispari, regolato dal sistema Kanban dei materiali in entrata e in uscita, tanto semplice quanto spietato, roba giapponese, roba che porta al suicidio, ma che consente un'automatica regolamentazione della gestione produttiva, in base agli ordini, just in time, senza accumuli di magazzino. Gli impiegati del Material Producer potrebbero pure essere inghiottiti da un buco di antimateria, senza nessuna conseguenza sui flussi produttivi. Ogni particolare ha il posto preciso nel carrello, profili tracciati a pennarello nero che vanno sbiadendo. Ammetto che queste sono cose che danno conforto. Io devo far mangiare la linea produttiva. Tutto qui. A seconda della domanda del cliente, nel ventre della catena di montaggio possono lavorare fino a 6 operaie. A 6 il mostro è impazzito. Ingoia materiale e defeca scatole vuote di cartone da eliminare e recipienti da riempire di leve, sportelli, viti, guarniture adesive. Il mio occhio schizza appena. Una postazione rimane scarica, i miei nervi sono allenati. Sembro un'aquila che si precipita sui topini. Io sono un fenomeno, una bestia. Nei miei giorni migliori non ho affanno, canticchio e sorrido inebetito. Le mie mani sembrano quelle di un direttore d'orchestra. Fanno sempre la cosa giusta. Ripercorro la linea in senso contrario per mettermi in vantaggio. A volte non basta. Ci sono i giorni in cui il fuoco centrale non si accontenta di ardere, ma erutta lava. La mia forma fisica perfetta, la mia sincronia non bastano. Le operaie entrano in coppia, anche i loro gesti sono armonici, esatti al millimetro, identici, non parlano, non disquisiscono su inutili drammi familiari, gastroenteriti, promozioni degli ipermercati, menopausa o stitichezza. Fanno prodotto interno lordo senza distrazioni. Ricomincio il giro che ho svolto, velocissimo. Con la coda dell'occhio mi accorgo che hanno già prelevato 2 dei 4 semigusci di ABS che costituiscono il corpo esterno del manufatto. Il resto è composto da un intestino, la massa radiante, e dal sistema nervoso, il layout del cablaggio elettrico. Le scatole svuotate delle spugne del gruppo evaporante schizzano ovunque. Devo recuperarle, tagliarle e andare al supermarket a prenderne di piene. Quando c'è qualche problema, il caporeparto si limita a interpellare l'operatore del controllo qualità, che a sua volta coinvolge altre figure professionali dal profilo ambiguo e dalla coscienza torbida. Ha inizio una processione attorno al manufatto, che evidenzia sintomi preoccupanti. La fila indiana si concentra sul luogo del sinistro, su se stessa, sviluppa una spirale di energia debole. Il drappello si ingrossa, staziona in meditazione dentro la linea produttiva. Chi si stropiccia il mento, chi un orecchio, chi preme pulsanti, chi stuzzica fili elettrici, chi mette mano a calibri digitali e cellulari, chi fa apprezzamenti sulle femmine intorno. Le operaie hanno uno spazio temporale vuoto, ronzano come insetti curiosi, senza requie, non sanno dove posarsi, mormorano battute acide. Il facilitatore può solo rovesciare i problemi verso il basso, verso la casta inferiore, e non pone questioni ai superiori. Se vi costringessi di punto in bianco a una visita guidata in questo luogo, anche senza l'intervento della signorina Paveri, mi dareste torto. Non trovereste malvagità palesi. Cadrei in contraddizioni, mi fareste obiezioni alle quali non saprei controbattere con efficacia, non riuscirei a farvi intravedere strategie e complotti, i contorni di un disegno criminale. I più intelligenti fra voi potrebbero al massimo verificare un'ordinata anarchia gestita dagli schiavi sugli schiavi, che non ha bisogno di interventi dall'alto. Il nostro management non ha posto in essere il delitto perfetto. L'operaia della prima postazione preleva il semiguscio inferiore che scende dallo scivolo che alimento. Applica le guarnizioni adesive nelle zone che accolgono la parte spigolosa degli ospiti più ingombranti, il condensatore e l'evaporatore. In genere deve farsi forza con la spalla. L'inserimento non è sempre agevole. Più a valle, un'altra operaia completerà l'accoppiamento incestuoso con il semiguscio superiore, sublimato da 16 viti autofilettanti codice 106005, fissate con un avvitatore tarato a una coppia di serraggio di 1,5 Nm. E di seguito, altre 8 viti per il fissaggio del motorino ventilante. Via via verso l'abbraccio elettrico, la sciarpa del cablaggio, che dà vita al nostro manufatto. L'operaia dell'ultima postazione effettua le connessioni elettriche, spinge un bottone verde e fa partire il collaudo funzionale. Poi si gira verso la postazione alle sue spalle e inizia la lavorazione finale del gruppo successivo, così che nessuno spazio temporale venga disperso nell'attesa. Il manufatto si scuote. Sono movimenti lenti, sembra una grossa testuggine che si risveglia, simula le azioni che dovrà eseguire una volta montato in vettura. Entra in azione il motorino ventilante, gli sportelli della distribuzione attivati dagli attuatori compiono i movimenti previsti. Un sistema pneumatico testa la tenuta del condensatore. La macchina conclude il ciclo di collaudo in 1 minuto e 20. Poi la macchina sputa un'etichetta di 2 cm x 4 da applicare nella zona posteriore, accanto ai tubi del condensatore. L'etichetta reca codice e data di produzione e una scritta confortante: collaudo conforme. L'operaia stacca la connessione e ripone la creatura in un contenitore con 4 posatori, tenendolo con tutte e due le braccia. Quando il contenitore è completo, un carrellista lo preleva e lo mette in una zona ben delimitata. Le torri possono arrivare fino a 6 contenitori accatastati. Chi guida carrelli elevatori deve possedere nervi saldi nel destreggiarsi tra birilli umani e ostacoli naturali. I territori industrializzati sono insidiosi. Dopo alcuni anni diventano tutt'uno con il mezzo. Andrebbero anche in bagno con le loro gambe, butterebbero giù il muro e piscerebbero senza scendere dal destriero. Sono i cavalieri senza paura di questa prateria. Hanno il vantaggio pratico e psicologico di avere una visione aerea dell'officina. Questo li pone in uno stato di privilegio. Nelle gerarchie di casta, pur non essendo una casta adamantina, non sono gli ultimi. La superiorità sugli esseri di terra, gli gnomi come me, si palesa nell'estetica e negli atteggiamenti. Senza bisogno di rimarcarla platealmente, quando girano con sapienza al volante, quando inforcano oggetti per riporli in posizione E, l'altezza massima delle sconfallature del magazzino. Io li guardo, i mulettisti in manovra, mi fermo con il bicchierino di caffè in mano e quando depositano lassù i pallet li ammiro. È affascinante. Quando per imperizia e colpevole leggerezza ribaltano materiale costoso o danneggiano muri e strutture, ostentano disinvoltura, risultano solo degli spericolati ragazzetti e acquistano in simpatia e consenso, anche tra il pubblico femminile. Un vero carrellista deve essere un vero uomo e deve aver fatto danni durante qualche incauta manovra.